forse in Africa che importa. Tu dimmi quando, dove sono le tue mani ed il tuo naso, verso un giorno disperato, ma io ho sete ancora. Perché penso al futuro. Tu dimmi quando, siamo angeli che cercano un sorriso, non nascondere il tuo viso, perché ho sete ancora. Ancora. Tu dimmi quando, lo sai che non ti avrò sul tuo viso, sta per nascere un sorriso ed io sete.